siamo con la squadra GOS Macerata Emergenza Prefettura. Qual è la storia della vostra squadra? L'associazione attiva a Macerata è cominciata a Macerata diversi anni fa con la guerra in ex Jugoslavia e da lì in poi ha cominciato un'evoluzione sia in territorio nazionale che all'estero con diversi progetti di sostegno e cooperazione sia nazionale che internazionale e risposta alle emergenze come terremoto, come diverse emergenze, alluvioni che ci sono state nei vari anni. Ultimamente con tutto questo afflusso di ragazzi che ovviamente arrivano, i progetti del GUS si sono ampliati e sono arrivati un po' in tutta Italia. Infatti anche qui ai mondiali antirazzisti abbiamo altre squadre del GUS che sono una di Formia, una del Salento e una polisportiva extraordinari, no, vaganti. E quindi insomma siamo diverse squadre perché siamo un po' dislocati un po' in tutta Italia e il progetto accoglienza ovviamente noi facciamo parte di quello dell'emergenza, quindi della prima accoglienza e siamo con questi ragazzi che ovviamente sono pieni di gioia di vivere e siamo qui in veste ovviamente nel campo del calcio, però diciamo che i ragazzi cominciano con noi a imparare l'italiano, cominciano insomma ad avere i vari documenti, i vari check medici e diciamo una prima accoglienza che racchiude un po' tutto e ovviamente non lasciamo mai scappare la parte ludica che serve sempre per tirar su gli spiriti. Siamo qui anche per questo. Allora, perché avete deciso di partecipare ai mondiali antirazzisti? Perché appunto è una manifestazione in cui i ragazzi possono integrarsi, possono avere rispetto delle altre persone e rispetto del gioco in se stesso, cosa che rende un momento di gioia, un momento di integrazione una cosa molto bella perché tutti i ragazzi si possono conoscere, possono instaurare nuovi rapporti e c'è un'integrazione che è su tutti gli aspetti fantastica, quindi non potevamo mancare. Ma secondo voi i mondiali antirazzisti possono lottare contro il razzismo in Italia, soprattutto nel mondo? Da quello che abbiamo visto c'è molta affluenza e siamo molto contenti di vedere ragazzi di tutte le nazionalità, Austria, Spagna, Turchia, abbiamo visto Germania, Francia, abbiamo sentito un po' tutte le lingue e ora non so precisamente tutte le nazionalità, ma questo è molto bello e vedere ragazze e ragazzi indipendentemente dal sesso, dalla razza, condividere un momento così speciale dà speranza e nella possibilità che il calcio possa aiutare in qualche modo e queste organizzazioni insieme al calcio aiutare a dare un bel calcio al razzismo.